Benvenuti al podcast di Davide e Andrea dalla Ambrapia Binda del 12 maggio 2005. No, stavo dicendo che è pieno di scritte strane, suggestive. Dicendo che oggi hai fatto? Ho fatto l'albero di navigazione di tv.it, prestigioso sito lanciato nel 2000 da Gino il Pollo, personaggio chiave della storia del web, indimenticato, folle oceaniche, su cui attualmente si basa questo sito, tra l'altro. Sì, essendo privo di tutti gli altri contenuti che dovresti fornire tu. No, i contenuti ci sono, cioè contenuti, non usiamo parole grosse, ci sono degli pseudo contenuti, però giustamente la gente che va nel sito va a vedere il personaggio che tra i suggest hanno reso celebre il sito. Sì. Cioè Gino il Pollo. Cioè Gino il Pollo, sì. Quindi vabbè, per passare di palla in frasca, ci troviamo in... come si chiamava questa piazzetta? Piazza Gobetti, detta la piazzetta dei topi. Dei topi, vabbè. Tristemente famosa. E anche dei cani. Con Caviera. Sì, infatti. C'era Caviera, Piero, la psicologa, la fidanzata. Psicologa psicopatica. E c'era anche il famoso, come si chiama, sessuomane Roberto, che ovviamente ci ha provato immediatamente, sì, proponendo la notte a questa cilena appena arrivata a Milano, in casa sua. Sì, infatti, soffiandocela proprio, si può dire, di sotto il naso. Sì, soffiandoci, infatti, tutti ci avevano fatto un pensierino su questa ragazza, non particolarmente avvenente, ma che aveva, sì, il suo... certo non so che... Perché durante la lettura dei Fratelli Karamazov c'è un personaggio che io ho immaginato come Marzia, la Bonazza. Bonazza, insomma, la... non è che sia Bonazza, però... quale ma... Ah, Marzia! No, io non ho capito. Ah, è così, in questo gruppetto del tempo, il bel tempo che fu di Via Vallazze, ogni tanto facevo la sua comparsa, questa donna. Sì, molto di malessere. C'è un personaggio dei Fratelli Karamazov, Caterina Ivanovna, che è esattamente identica, anche come carattere, come tipo, sì, preciso. Anche con questo sguardo sfuggente. Sì, esatto. E anche queste forme procaci, sì, e ingigantite dalla è natura. Bella, non è che è proprio procaci, è proprio bella, bella, sì, bella ricciotta. Esatto, la bellezza... bellezza generosa, sì, la bellezza senza canoni, ecco. Sì, qua ci troviamo, birrificio Lambrate, anche questo riecheggia serate vissute inconsapevolmente, ma che poi avevano sono state scritte, avevano la loro poesia, si sono trasformate in ricordo mitico. Sì. Chissà perché avviene questo. Ma questo avviene, io sembro quei delle cronache del calcio, quello del commentatore, quello che deve... Ma questo è dovuto principalmente al fatto che eccetera eccetera. Ecco, adesso ci avviciniamo inesorabilmente verso i luoghi culmine, Domus, di questo percorso. Domus Antiqua. Sì. Via Vallazze numero 102. Adesso siamo decisamente sotto l'UNES e fra poco saremo in vista della finestra. Abbiamo sorpassato così, un po' lasciandolo passare in sottordine, il kebab. Il negozio di kebab, che è stato il nostro primo. Sì, questo negozio di kebab che ha avuto un percorso al sé. E questo è un momento, sì, c'è un momento di. Un attimo di pausa perché noi stiamo osservando casa ex casa nostra completamente sventrata, cioè, priva di infissi. No, aspetta, noi che piano eravamo? Quarto? Guarda, è lì, esattamente, sì, quello, c'è, no, quello che era la mia stanza e c'è la carrucola per cosa? Per i lavori, per scaricare materiali dal balcone. Sì, è la mia stanza, anzi la nostra, cioè la mia stanza è il tuo pavimento. È tutta ridipinta, no? Perché per mio senza infisso, in un materasso in un materasso gettato a terra, così la bella è meglio. Sì. Adesso, beh, giusto per collocare la situazione, noi siamo a fine sera, a fine giornata, con il cielo che volge all'imbrunire. Una... il cielo, ho capito, l'uccello che volge all'imbrunire. No, no, si spera che sia ancora nel, nel fulgore delle sue forze. Niente. Cioè, siamo saranno alle 8 circa di questa inizio estate, fine primavera, ci hanno aperto il portone. Adesso siamo anche di fronte alla gelateria Lo, anche questo è stato pallido conforto delle caldissime serate estive milanesi. Sì, c'è anche la signora quella lì. Insomma, tutto al suo posto, manchiamo solo noi, però devo dire, vi aggiungo, esatto, aggiungo per fortuna, perché sì, tutto, tutto a suo tempo, tutto a suo tempo. Come dice Seneca, no, li montare proprio, c'è sì. Comunque, ecco, da questo punto, praticamente attraversata la via Teodosio, inizia la classica passeggiata di una volta. Vabbè, io direi che adesso facciamo un attimo una pausa e torniamo torniamo subito. Mi diceva il mio collega qui in studio che si è aggiunta nella sua esperienza milanese la dimensione del ricordo. Sì, per me però, non in generale. No, in lui. Per me, perché già ormai sono 2 anni buoni che insomma sono qui, quindi già ci sono delle cose che mi evocano ricordi di un tempo non troppo lontano, ma già velato di malinconia, di piacevole ricordo. La dimensione del passato, che prima non c'era, solo il presente, c'era quello che prima era la novità. Non esprimi bene tu questi concetti che io proprio vagolo nell'ombra. Ma io cerco di dare una mano, quello che posso. Quindi casuale, rilassante. Siamo tutti e due ancora con l'adrenalina in corpo di uno dei nostri ex coinquilini. Di cui non diciamo il nome, però. Zanetti. Doris. No, è poverino, lui è affettuoso, però a modo suo. Però sì, è quello che è, diciamo, c'è una tara naturale. No, ma non lo fa per male. No, infatti. Però ha un modo di fare un po' scostante che mette un po' in imbarazzo. Poi anche la situazione... Però da tanto tempo non ci ricordavamo più esattamente quanto era. Esatto, con questo sguardo... Però ci dobbiamo andare adesso sì, che dobbiamo ci fare? Ci dobbiamo andare per forza adesso, no? O no? O ignoriamo bellamente. Non dipende dalla voglia che abbiamo. Ne hai voglia. No, se andiamo qui la è serata finita, è qui. Qua. Se tu volevi fare una serata di distrazione, si può fare, ma si può fare, ma va. Se per te va bene andiamo là. Non lo so, però dovremmo anche cenare. Tu fame ne hai? Un po', sì, non si può negare, ma. Ma sì, allora facciamo, non lo so. Dipende da te, non puoi... Non saprei. Questo è un altro momento topico. La decisione imperscrutabile. E tra noi purtroppo manca il leader per certe cose. No, ma c'è in realtà c'è una... No, per forza, cioè, non è che... È che ci sono delle dinamiche di presa della decisione che sono... millimetriche. E poi però cioè, devo dire che questo elemento estraneo un po' della registrazione un po' sì, ma ti direi di interrompere perché sono affari nostri. saliremo a casa di Piero Saragat, l'ex coinquilino, per un breve saluto, una breve visita di cortesia e poi riprenderemo il cammino. Siamo in attesa della risposta al citofono. Ma funziona? Chi sta? Funziona? Reiteriamo la richiesta. Sto in bagno. Magari non funziona. Oppure proviamo dalla finestra, che lì c'è sempre aperta. Che so. Piero! Piero! Scendi! Sì? Siamo Davide e Andrea. Oh, hola, hola! Salite! Ci troviamo adesso nel corridoio di casa Saragat. Il padrone di casa è impegnato in altra conversazione. Sono dei momenti un po' difficili. Non è, insomma, stiamo cercando di gestire questo momento nella maniera migliore. Sì, vedremo un po' come muoverci. Adesso siamo un po' in fase interlocutoria. Sì, anche lui è in fase interlocutoria, però al telefono. Sì, perché effettivamente adesso ci ricordiamo che una sua caratteristica era questa di delle lunghe telefonate oltre mare, essendo lui sardo, quindi oltre il Tirreno. Cosa aggiungere di più? Niente, ci sentiamo dopo. Is a burning thing, and it makes a fiery ring. Adesso questa batteria finisce o non finisce? No, ancora no. Ancora ce n'è. Ce n'è sufficiente. Io qua vedo già dei segnali di sofferenza per questo per il lavoro che purtroppo dobbiamo fare. C'è una cosa che abbiamo detto, dobbiamo fare questo lavoro. Ma certo, ma uno si lascia andare così a questi commenti spontanei e poi va a spuntare sto coso bianco, sto coso di sotto. Ecco, come si può sentire dal rumore di sottofondo, ci troviamo in pieno porto Buenos Aires con la sua massa ritirante di luci, di suoni, di piacevoli di zanzare, di piacevoli e spiacevoli umori provenienti dai tubi di scappamento delle automobili. Però ha sempre il suo fascino, stavo per dire appunto poco fa, un suo fascino perché ricorda così lunghe passeggiate di una volta. E poi questa città rutilante, rombante, piena di luci, di colori, che nella sua prima forma in cui attira il pellegrino veduto da lontano, che si è propinquo a queste realtà nuove. Sì, il pellegrino che è abbagliato dagli ingranaggi sfavillanti d'acciaio e di grasso della città industriale. Si accinge a modificare la propria esistenza, la propria vita, il proprio benessere e i propri metri di valutazione. Sì. Esatto, non posso che confermare punto per punto quello che è stato detto. Niente. Comunque, tornando al corso Buenos Aires, questa via noi l'abbiamo percorsa tra lunga chilometri e mezzo, l'abbiamo percorsa decine e decine di volte, se non centinaia, migliaia di decinaia di volte, in direzione Duomo e in direzione il ritorno, in direzione Loreto. In questo momento siamo circa un quarto della sua lunghezza, fra impalcature di restauro dei palazzi coperte di pubblicità che si spostano come un immaginario domino Sì. Da un palazzo all'altro. I pinguini che camminano, che dicono arriviamo a casa tua. Sì. Una pubblicità di un canale satellitare dedicato agli animali, si chiama Animal Planet. Gazzura. Sì. Il primo canale di Discovery. Il primo sponsor ce l'abbiamo fatto. E ricordiamo che questo programma è gentilmente offerto da Animal Planet di Gazzura. No, era perché c'è questo slogan: un giorno, se qualcuno dovesse risentire questa cosa, avrà questo sapore un po' vintage delle cose di una volta. Sì. Questo slogan. Ma noi vogliamo, cerchiamo di andare un po' al punto della situazione, al punto del percorso, al significato ultimo della camminata, dell'attraversare col verde pedonale, per esempio. Sì, del campo. Qual è il senso di tutto questo? Ma il senso di tutto questo è che, niente, avendo fame di fame di carbo e fame di gente, di folla, di questi bagni di folla che a me piace fare, ci siamo catapultati nel posto più affollato, diciamo, che è questo, della zona, non di tutta la città, però uno dei più affollati anche di tutta la città. Sì, che però in questo momento è semideserto. No, perché è semideserto? Perché nel momento in cui è stata pianificata l'escursione, era un orario di ipotetica affluenza, di maggiore affollamento. Poi la sosta da Pirosaragat, di qui sopra, ha un po' spostato il programma, la tabella di marcia, facendoci sconfinare verso l'ora del deserto, cioè, che del resto adesso stiamo dicendo le cose che avremmo detto qualora avessimo fatto quelle, stiamo ripetendo esattamente. Adesso non ha nel minimo senso, non rispondono più alla Esatto, però come al solito queste colonie che si appropriano dei nostri cervelli, queste colonie di semantiche contro cui allontaniamoci, perché qua arriva una schizzata di acqua. Quindi queste colonie semantiche di senso ci hanno costretto a dire due cose che non c'entrano nulla. Una volta ci siamo seduti qua a mangiare, tipo a pranzare, tipo alle 6. Sì, sì, sì. Mi ricordo che abbiamo parlato di Londra, Parigi, delle differenze ipotetiche, non conoscendo le città, tra le due città, ipotetici desideri di vita conosciuta. Adesso a vedere questa via così vuota mi ricordo. Ma non è così vuota in realtà. No, di media sera. No, però il negozio non chiude. Però qui c'è già in nuce quell'aspetto di questa via che a noi non era tanto gradito, che era quello del ritorno notturno. Esatto, no? Sì, esatto. Però ancora non siamo nella fase, ancora c'è gente che passeggia, anche perché c'è caldo, comincia a fare caldo, quindi la gente ha piacere di uscire. Sì, però non ha il piacere di uscire in queste città, perché questa, essendo una via a prevalente funzione commerciale, nel momento in cui si chiudono i negozi, cessa di esistere praticamente, non ha più ragione di essere. E allora si ammanta di un velo di nostalgia permanente, di vacua misteriosità, noiosa simpatia. Vacua misteriosità non lo penso dire. Che si fa attraversare, sì. Però con quel compiacimento che dà lo stare in un luogo un po' triste. Sì, un po' triste, un po' deserto, anche queste corsi urbani un po' alla di pittori, tipo, come si chiama quello? No, stavo dicendo Velasco, però non è Velasco. Tirò, contemporaneo? Sì, è un pittore che fa le periferie milanesi, di cui in questo momento non mi sovviene il nome. Ci documenteremo e poi con un abile montaggio in post-produzione sovrapporremo questa defiance con la citazione. E quindi dicevamo che qua siamo all'altezza della Feltrinelli, l'ex Teatro Puccini. Il Teatro Puccini? Sì, là dentro c'è un teatro, sì. Che adesso è un cinema. Sì. Anche qua c'è il nobile teatrino. Il teatrino, cosiddetto il teatrino. Sì, perché... Cioè no, perché? Perché si chiama così? Ma luogo di... Di perdizione. In quanto sede di spettacoli hard. Sì, solo per adulti, vietate ai minori di 18 anni, eccetera, eccetera. Il negozio giapponese Muji. Sì, che noi non abbiamo sperimentato più di tanto. Ma tu ci sei stato e hai comprato il lock note. Esatto. Quindi per i tuoi acquisti vai da Muji, Orso Buenos Aires 108. Muji. Una volta a Telethno facevano un programma così, che siccome per trovare lo sponsor, per essere finanziato, era fatto proprio così, cioè prendevano un personaggio famoso e gli facevano fare il giro di Vietnam, questo entrava in tutti i negozi per la col negoziante. Sì, sì, sì, quello con quei due ragazzi e una ragazza. Sì, sì. Sì, sì, ho presente di turno, cioè, sì, una volta ho visto Maria Teresa Ruta, per dire. È un circolo virtuoso o vizioso, per dirsi voglia, perché veniva finanziato dagli sponsor, poi era sugli sponsor. Però, esatto, però è una bella trovata. È un po', sì, un modo per uscire dalla sete pubblicità di cui la nostra cara televisione telecentrosicola è maestra. Sento nell'aria questi accenti milanesi. Sì, chissà se saranno stati captati dal nostro studio di registrazione. Ma infatti, purtroppo i mezzi a nostra disposizione sono un po' limitati, ma sì. Speriamo che fungano. Speriamo che fungano. Speriamo che fungano, perché non abbiamo ancora la certezza che tutta questa fatica possa essere ripagata dal risultato. Ma noi, con la consueta fede nella tecnologia, nell'utopia, sì. Andiamo avanti, che dobbiamo fare? Insomma, l'uomo... Poi l'uomo è un animale ragionevole. Un animale... Allora, questi commenti insensati si riferiscono a passaggi di ragazze, incroci, di sguardi, che caratterizzano più del passo, più della fatica fisica, queste escursioni. Sì. Sono proprio un costellare... Sei cominciato a parlare con il linguaggio tereo. Costellato liminare di queste peregrinazioni per la città di Milano. Siamo qua in Piazza Duomo con il Duomo ancora mezzo impacchettato che tende verso la sudestizione. La Madonnina si staglia nel cielo della notte, nel frattempo la notte è iniziata. Amici del giorno per sognare, per conoscere, per amare. Sigla. Ma adesso, ecco, da ora in poi diremo una serie di clamorose, ma lo faremo come piace a noi, sottovoce. Dunque, abbiamo attraversato questa piazza colpiti dalla presenza di un barbone addormentato sulle griglie della metropolitana, attratto dal flebile calore. Le stesse. Sì, ci sono dei barboncini rosa che circolano disturbati. La serie che no, siamo andati in un posto a iniettarci nelle vene delle certe sostanze. Sì. Abbiamo cenato in un modo ormai consueto e consolidato. Con due bottega del pagliaccio Ronaldo, sì. Ronaldo il clown, Ronaldo il pagliaccio. Abbiamo mangiato io un un menù gran saporito. Anch'io, un gran saporito. Due menù gran saporito medio con salsa agrodolce. Come si dice? Salsa. Non lo so. No, io sì, tu salsa avevi... come si chiama in italiano? Sì. No, abbiamo tradotto il menù gran saporito. Come si può tradurre? Niente. Vabbè, facciamo salsa composta da aceto, pomodoro e zucchero. Non si può tradurre. Sì, ecco, la salsa prodotta dal padre della mancata First Lady, Teresa Heinz. Tu sai che Teresa Heinz è la moglie di Kerry, mancato presidente. Teresa Heinz è la figlia del fondatore della Heinz, inventore o comunque commercializzatore della ketchup Heinz, anzi della, forse più della senape Heinz, forse Heinz. Heinz forse addirittura. Ah, ecco, sì, come avevo colto la sottile metafora. Beh, adesso abbiamo raggiunto la fermata del tram numero 2. Sì, siamo in attesa della chiesa di San Satiro in via Torino. Questo ci porta un po' all'ilarità, allo scherzo. E anche, diciamolo pure, ha una certa vivacità di tipo erotico. Sì, satiro di mano. Esatto. In effetti qua proprio è stata culla di oggetti, anzi di oggetti di questa attività. Eccoci giunti dopo varie peregrinazioni in via Pestalozzi, appena scesi dal tram numero 2, diretti verso casa, la nostra casa sita in via Mrogio Binda 1. Questo segna anche la fine della nostra, avventura. Non molto avventurosa, ma pur sempre un'avventura. Sì. Essendo quello che ci è capitato, un percorso di arricchimento. Sì, in sottofondo probabilmente si sentono i commenti di approvazione di questo discorso da parte del collega in studio. Itinerante. No, certo, sì, torno a casa sempre con qualcosa di più, con qualcosa di più dentro che ti arricchisce, ti completa, ecco. E, niente, alla fine abbiamo imparato qualcosa di nuovo che prima non sapevamo. Ma cosa? Senti, cosa non lo so, ma vogliamo dire qualcosa sulla... la caratteristica di questo periodo a Milano, che sono che l'abbondanza di questo pulviscolo nell'aria dovuto a? Ma gli aceri che sprigionano qui questo tipo di acero. L'acero di bifronte. L'acero bifronte. Che bifronte a chi? Che diffonde i suoi semi avvolti in un soffice batuffolo di qualcosa che sembra simile al cotone. Sì. E che in maniera caratteristica si spara. E a destra addirittura sul naviglio c'era una patina di questa sorta di cotone. Sì, che però io penso che per gli allergici deve essere un veleno pure. Infatti sì, c'è una quantità incredibile. Sì, nell'aria. Sì, che ti rendono la vita un po' difficile, perché ti entrano nel naso, nelle orecchie, negli occhi, insomma, il cervello. Proprio il cervello, ho ricevuto una gomitata in testa su due che mi ha un po' stordito. Sì, c'è stato proprio, io ho sentito il botto, non voglio dire il rimbombo. E poi ho sbattuto i denti Perché mi ha fatto sbattere i denti e quindi ho questa mascella tutta anchilosata. Sì, c'è stato uno spiegato con gli occhiali. Sì, esatto. Una specie di casa professionale che gli ho dato questa cruzzata. Quindi è pronto. Scusa. Fortissimo. Una gomitata proprio con la punta del gomito. Col pizzo. Sì. Comunque, siamo usciti indenni, io sicuramente. Un po' tutti. Sì. Allora siamo qua di fronte alla pizzeria Ai Tre Ghiottoni che trova sia all'angolo tra via Bind e via Vatt. No, è via, sì, via... via Tosi. Via Tosi. Via Tosi, sì. In Tosi, non si suol dire. Via Bind e via Tosi, questo è l'angolo. Sì, come di consueto verso quest'ora la strada è invasa da macchinoni di un certo calibro, essendo di fronte a casa nostra un rinomato dancing. Sì, per persone un po' di mezza età, diciamo, quelli che... Il famoso dancing l'intreccio. Sì. Frequentato da ultra sessantenni. Sì, no, ultra, no? Sessantenni, sì. Non ancora giovani dentro. Sì, sì, diciamo dai 55 in su. Sì. Non diciamo anziani perché i nostri genitori hanno più o meno questa età. Sì. Noi fra poco dovremo. Continuiamo così, sì. Insomma, adesso siamo proprio in presenza delle chiavi e stiamo rientrando in casa. Apriamo il portone e con questo possiamo anche salutare per oggi perché la nostra gita è terminata. Allora, alla prossima. Alla prossima da Andrea e Davide. Ero matti, cataro, marco.